chicchi e non chicchirichì. Notata la differenza? Riso Gallo! Riso Gallo è scelto l'origine. Fresco e sempre in salute perché ben protetto. Riso Gallo è un gran mangiare. Riso Gallo! Eccoci. Nuova sigla per la brusca. Per farci perdonare delle, delle negligenze delle settimane passate. Una siglettina nuova. Tra l'altro, in ginocchio sui ceci, ho tanta cenere sul capo. Perché forse il 99% dei danni alla regia li ho causati io. E io perché di conseguenza sono di fianco, per cui... Quindi chiediamo perdono a tutti i wombattiani che hanno avuto difficoltà a causa di un passare veloce col mouse davanti a un piccolo tasto con su disegnato un teschio. Io l'ho pigiacchiato, perdono a tutti. Ed è andata grassa che non è esplosa la regia. Esatto, ecco. Quindi detto ciò, mea culpa, e poi basta, non si va oltre, perché il senso di colpa è una cosa cattolica, a noi non ci piace. No, anzi, però ci piace il riso gallo. Sì. Anche questa vocetta un riso pochino gallo. Fascistella, orribile da studio luce, ma vabbè. Questo purtroppo ci ricordano molti dei... È un monito, dei... un memento. Sì, vabbè. Ok. Allora, signore in giallo, la signora in giallo, sulla scaletta è accentato la signora. La signora. La signora in giallo. Siamo qui a Cabot Cove, nel paesiello della signora in giallo. Signora... Gna, gna, gna, gna, gna, gna. Gna gna gna gna gna gna gna gna gna gna gna. Dammi un altro gatto in sud coreano. Questa cosa è meravigliosa. Ti prego, dacci quello in spagnolo. Miau miau. Carino. Oddio, a questo punto lo vorrei sentire anche in inglese. Miau! Miau! Miau! Miau! Miau! Ci sono sei vocali. Miau! Miau! È lì sulla mensola pronto a sgozzarti quando passi. Ci sia, questo è il pezzo della giornata. Allora, chi ha mestoli, padelle tra le mani li deponga, chi sta scrivendo al computer metta via la tastiera, si alzi dalla sedia, se siete almeno in due o in tre nella stanza vi prego iniziate a prendervi a braccetto perché è giunto il vostro momento. Dopo questa andrete anche ad amici. Questo è il ballo del qua qua e di un papero che sa fare solo qua qua qua più qua qua qua. Mamma papero papà con le mani fa qua qua e una piuma vola già di qua e di là. Le ginocchia piega un po', poi scodinzola così, batti forte alle tue mani. Dai forza, scodinzola! Con le ali torna qua, ma che grande novità di qua qua qua. Bambini, prendete la coda! Fare solo qua qua qua più qua qua qua. Forza tutti qui con me, abbracciando 3x3. Attenzione, si farà un gran qua. Dagli spalti ci dicono sempre peggio. E se un bacio volerà, che male fa? Ma chi fa però non fa, che figura che farà? Di sicuro sembrerà un baccalà. Mi sento in dovere di sfumare questo pezzo, anche se poteva essere divertente, ma vabbè, andiamo avanti. Voglio sentire come fa l'ape. Sì, solo z senza b. Si ripete. Z. Bravi. È la vibrazione del telefono. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Bellissimo. Come ti viene in mente? Qua, c'è quale? La la la la la la la la. Un coccodrillo vero, un vero alligatore. Ti ho detto che l'avevo e l'avrei dato a te. Ma i patti erano chiari, un coccodrillo a te. E tu dovevi dare un gatto nero. Non ero una giraffa di plastico di stoffa, ma un'inca ne rossa e l'avrei data a te. Ma i patti erano chiari, una giraffa a te. E tu dovevi dare un gatto nero a me. Volevo un gatto nero, nero, nero. Mi hai dato un gatto bianco e già non ci sto più. Volevo un gatto nero, nero, nero. Siccome sei un bugiardo, la la la. Un elefante indiano con tutto il baldacchino l'avevo nel giardino e l'avrei dato a te. Ma i patti erano chiari, un elefante a te. E tu dovevi dare un gatto nero a me. Volevo un gatto nero, nero, nero. Mi hai dato un gatto bianco e già non ci sto più. Volevo un gatto nero, nero, nero. Siccome sei un bugiardo, con te non gioco più. La la la la la la la la. I patti erano chiari, l'intero zoo per te. E tu dovevi dare un gatto nero a me. Volevo un gatto nero, nero, nero. Invece un gatto bianco, quello che hai dato a me. Volevo un gatto nero, ma insomma nero bianco. Il gatto me lo tengo e non do niente a te. La la la la la la la la. Sabotaggio dei microfoni, funzioniamo! Perfetto, oh, probabilmente ragazzi. Vi siete persi poco male, però vi siete persi tipo tre quarti di quello che ho detto stasera. Sì, è così. Io voglio continuare a sentire, che ne so, la mucca, la mucca, solo l'ape giapponese. Tutta sera. No, io voglio sentire il maiale, dai, il maialino. Schwein. Maialino in tedesco. Schwein. Oink, oink, oink, oink. Questo è proprio da fattoria degli animali, eh. Oink, oink, oink. Più nasale in inglese, in sì. Maiali. Sud Corea. Bellissimo questo. Ando coio coio. Curo, curo, cu. Ancora, ancora, No, ancora. beh. Tutte queste cose le stiamo prendendo da un sito bellissimo di cui poi vi citeremo la fonte, il siriano. Wow, Siria. Cioè, viene letto così, in realtà è scritto però Ciu. CHU, giapponese. Sì, vabbè, ma stanno di Grande fuori. fantasia giapponese. Secondo me non Sì, hanno mai sì. visto un maialino. Allora, questo è in francese, ma è scritto. Ciao, ciao, ciao, ciao con l'H. No, fantastico. Poi abbiamo Taiwan. Taiwan esiste. Oh. Onesto, Però tutto dai. il Cucù, panorama cucù. est è quello che lo fa Molto meglio. coerente, sì. Spanish. Corrin, corrin, corrin, corrin. Vabbè, a caso. Hanno Currin, lanciato con la fionda currin. un paio di sillabe ed è venuto fuori Doveva essere anche parapapà, questo. Sì, parapapà. cuero, cuero, puru, pupù. La mucca. Paloma. Dai, ormai la mucca si fa. Beh. I tedeschi sono professionisti delle mucche. Molto inglese. L'hanno fatto con il delay, tipo. Sì. Allora, questo è il sudcoreanish. Abbastanza realistico. Il siriano? In realtà non c'è una consonante all'inizio, inizia con una vocale. Oh, questo è. Ero E io invece. che facevo la mucca. Facciamo la mucca giapponese. Mucca giapponese. Francesi, attenzione. Sto assaggiando un pastis al Sì. tramonto a Montmartre. Taiwan. Ci si Sanno lamenta. fare. E alla fine, Spagna. i nostri fratellini. Dai, ma è una Anche vera meno. mucca. Non posso risentirlo, l'ultima era Sì. bellissima. Eccolo, eh. Che bello. Va bene, deliri animaleschi e animalisti A a parte. parte, Oh, abbiamo. mamma. Allora abbiamo, sai, dopo aver sentito tutti questi animali, che fai? La prima domanda che ti poni Qual è: è? Dai, qual è l'animale di cui non si sa mai il verso? Forza, dai, sentiamo. lo sentiamo o lo diciamo? Lo Lo sentiamo, sentiamo. lo accendiamo? Lo accendiamo. Io direi che possiamo fare così. Facciamo Accendiamolo, via. così, dai. Capito? Puntatona questa, ma lo diciamo poi in realtà che il coccodrillo Si si sa come sa. fa, certo, non è mica vero che non ha un verso e che nessuno lo sa. Oltretutto, essendo un animale con una mole, una presenza all'interno del mondo animale incombente, deve, come Te la dire, sei si fa vissima, magna tutti, che sentire. fai? Come quando andate, non so, in trattoria da qualche parte, c'è sempre quello che. Lui è il coccodrillo della situazione, mangia tutto, si fa sentire, è grosso, è imponente. che ci racconti qualcosa tu sul grande anfibio. Può partire la divoratore. Musichetta di Quark. No, se vuoi posso rimettere il coccodrillo. Allora, questo rettile anfibio, pensate un po', ce l'ha tutte e due. Tutte e due. Che come gli alligatori, che sono una cosa diversa rispetto ai coccodrilli, fa parte dell'ordine dei crocodilia, differisce da tutti i suoi parenti, diciamo, per alcune caratteristiche fisiche. Cioè gli altri davvero tendenzialmente, anche l'anaconda, c'è comunque il loro parente. Quando mi viene in mente ve lo dico. Forse l'alligatore, che non parla, non fa rumori, è sempre molto insidioso e silenzioso, ma perché è furbetto, però. Il coccodrillo, che non è un alligatore, è un animale rumoroso che comunica con i versi tipici suoi, comunque insomma un linguaggio tutto suo, sin da quando è ancora nell'uovo, da dove richiama l'attenzione della mamma. Bellino. Il suo suono si chiama trimbulare ed è caratterizzato da un insieme di suoni gravi, tremuli e acuti. Ovviamente è un po' difficile ascoltare un cioè riuscire a registrare un coccodrillo, per cui non... Perché ti ci vorrei proprio vedere con il microfonino nel laghettino. Quindi trimbulare. Il trimbulare. Invece il gatto, no? Abbiamo già sentito il pezzo del gatto che ci è servito per copertura d'emergenza, ma del gatto si sa, insomma, il secondo migliore amico, il terzo migliore amico dell'uomo, perché in realtà... Il primo qual è? Una volta un bambino domandai, volevo fargli sputare fuori il nome di un animale particolare, gli disse dai, il migliore amico dell'uomo, su, ammiccando un po', no? Perché la risposta alla domanda era quella. E lui mi disse, è Gesù! Quindi Gesù è il primo amico dell'uomo, migliore amico dell'uomo. Poi c'è il cane, che talvolta è il cane di Gesù, e poi c'è il gatto. Sto per morire. Il gatto, il terzo migliore amico dell'uomo. Oggi sono così brillante perché non ho lavorato e quindi... Come fa Gesù? Gesù non si può, in radio non si può vedere, però fa tutte queste cose con la mano alzata, in verità vi dico, però è un'altra cosa. Sì, è più complesso. Si rimanda all'ora di catechismo. E quindi, terzo migliore amico dell'uomo, che è il gatto, che fa miagola, questo si sa, giusto? Mi sono persa un attimo. Sì, sì, sì. No, vabbè, questo lo saltiamo perché tanto ormai si sono sentite tutte. Tutto, Sì, sì. Però sì. Non lo diciamo che appunto i gatti hanno una, come dire, quasi una varietà di suoni per farti capire in realtà. Per come i bambini, anche tra di loro, sì. I bisogni, tipo la paura, la sofferenza, la frustrazione, il calore, la coccola. Bellini. Quando dicono la coccola, sì, sono anche loro i migliori amici dell'uomo, anche. Sì, ci sono un sacco di, appunto, verissima questa cosa, sono le chiacchierate dei siamesi. Sì. Parlano. Hanno tantissimo. Sì, grandi emissioni. Bellini. Sono proprio belli, sì. E cosa ci dici allora del cane, secondo migliore amico dell'uomo? Che stranamente fa bau bau. Abbaia. Abbaia. Ed è quello più conosciuto da tutti, sì. Quello più famoso. Perché... Come fa il cagnolino? Bau bau. Bau. Da perché quando hai sei mesi, sì. Che te lo dico. Sì, praticamente sì. Importante. E anche loro, a seconda di quello che vogliono farci capire, creano dei movimenti labiali differenti, comunque si esprimono diversamente. Tipo, e ci sono anche dei nomi differenti per esprimere queste... Il guaito, il mio ora, in questo momento la Nina c'ha un guaito perché il dolore la affligge. Vabbè. Il latrato. Poi c'è il latrato. Se urlano con una certa intensità oppure ringhiano, appunto quando ti vogliono attaccare o ti vogliono minacciare più che altro, anche se spesso poi sottolineano, no, in questo sito che lo fanno spesso ma soltanto per gioco, ti vorrei vedere. No, il cane ringhia per e poi difesa c'è il rumore, tua, ecco, cosa meravigliosa, sì, il cane ringhia, esatto. Per difesa tua, per annunciarti sì, che sì, onesto, dai. Manca poco. Poi vabbè, c'è un rumore differente ancora quando è in calore, piuttosto che quando ulula, che è più una roba da, cioè da discendenti dei lupi. Esatto. E poi ci sono, vabbè, tutti i cani nordici che appunto hanno questo, questa sorta di ululato derivante dal lupo. Tantissimo. Che bello. E basta. E così, ma poi nelle sentire? Altre lingue l'abbiamo già sentito a questo punto. Il cane l'abbiamo già sentito, vero? Come? Il cane l'abbiamo già sentito. No, cara. Facciamo sentire un pochino. Certo. Come fa il Come cane? Fa il cane in qualche lingua? Partiamo dal giapponese che è sempre Vai. Il più divertente. Van. In sudcoreano addirittura Mong mong. Chissà. Taiwan. Dai, bravo. Cani piccoli. Sì, sì. Spagnolo. Veritiero. Bravissimi, sì, spagnoli. Nel giochi senza frontiere degli animali sì. Stanno vincendo loro. Però, perché è scritto come, come in inglese. Questo era l'arabo. Waf, waf, waf. I francesi hanno la voce affettata, però, eh. Waf, waf, waf. Sì. Inglesi, facilissimo, è famosissimo. Woof, woof. Waf, waf, waf, waf. Ha sguaiato sto cane. E in siriano. Bello. Hai finito con una mucca. Bellissimo. A questo punto, scusa, facci sentire anche un pezzo musicale sul cane. Facci Vai. Sentire un pezzo musicale da cani. Un po' struggente. un po' vecchio un po' così, stile, eh? un po' melo. Domitilla. Un po' melo. Sì, sì. Quel cane di stoffa che t'ho regalato non è un mio semplice dono. Quel cane di stoffa non è come gli altri perché ti ricorda me stesso. E quando lo baci e quando lo stringi ti illudi di stringere me. Al cane di stoffa ho detto una cosa che deve restare segreta. Ma quando io parto e sono lontano dovrà sussurrarti amor, amor. Lily è il nome del cane di stoffa, un nome davvero carino. Io sono convinto che quando ti parla si fa tutto rosso il visino. Ti sveli il segreto più bello del mondo perché ti sussurra amor, amor, amor, amor. E quando lo stringi ti illudi di stringere me. Al cane di stoffa ho detto una cosa che deve restare segreta. Ma quando io parto e sono lontano dovrà sussurrarti amor, amor. Lily è il nome del cane di stoffa, un nome davvero carino. Io sono convinto che quando ti parla si fa tutto rosso il visino. Ti sveli il segreto più bello del mondo perché ti sussurra amor, amor, amor, amor, amor. Amor. Eccoci. Ecco, perfette, perfette in pieno orario, perfettissimo orario, sì. Più che pieno direi. Che adesso però abbiamo poco tempo, non possiamo dire tutto quello che abbiamo in scaletta, quindi io inizierei a scremare e farei tipo una carrellata. La cosiddetta Animal Farm. Sì, però prima voglio dire sì. Iniziamo a dire tutti gli animali, per esempio, vabbè, la rana che fa? gracida, fa gra gra, quindi gracida. Vedi sì. Anche come il verbo deriva dal cari miei. Poi gracida. Che abbiamo il piccione o colombo a seconda, che, amico che, della che... Fletcher ha fatto la battuta. Signori, piccione che fa gruga o tutuba. Tu. Per mia nonna diceva anche Roberto. Per mia nonna diceva Roberto. Vabbè, Roberto. D'altronde, chissà. Quindi Robertava, no. Mua. Gruga o tuba sarebbe in italiano, quindi... Sì. E invece l'avvoltoio pulpa, il merlo fischia, il corvo cornacchia. Crocidano. Mi ero persa su quella sottolineatura. Il crocidio lo usava Pirandello. Sì, è vero. Poi chi c'è? La tartaruga. Bella. Sentiamo un po' cosa hai da dire sulla tartaruga. Che non ha le corde vocali e quindi non riesce a mettere piccina. Suoni articolati. Non però... esiste però cioè, nel senso, la tartaruga non si può dire che sia muta, però anche se non esiste il nome per indicarne il verso, perché mette un suono vero, verissimo, non so cosa. Anche se un avete una piccola tartaruga in casa l'avrete sentito, emette un suono acuto, molto molto alto, simile a un soffio, e vi sta dicendo di andarvene, sì, perché vi teme. È Piccina. Appunto il suono che fa per tenere lontani i predatori. Le tartarughe non si tengono in casa, lasciatele in Australia e nei paesi dove stanno bene. Ecco, brava. Giusto. E anche durante l'accoppiamento, certo. Le tartarughe fanno un gran casino. Belline. L'elefante. Bello. Il mio animale preferito. Barrice. Zero, sì. Sì. Perché è grosso, mangia tanta erba. Ed è molto silenzioso e soprattutto quando si vuole difendere lo fa. Ecco, così. È un animale con una comunicazione acustica molto intensa, infatti barrisce, lo sappiamo tutti come fa. E se sei lì ti spettina, sì, per intenderci. Non è tu che l'hai stai visto lì. Un elefante dal vivo, vero? Sì, però sempre in condizioni un po' tipo zoo, circo, queste robe acquitine. Pensavo che quando alle quali ti portano da bambina, quando hai fatto quei viaggi. No, ma non, cioè, sempre da lontano, ma mai nelle zone adatte. Peccato. Invece c'era un amico di un amico che ha fatto un periodo dove in India li lavava, ha fatto come lavoro il lavaggio degli elefanti. Sì. In India, mi sembra. Sì, sì, sì, sì. India, Thailandia anche con facilità, però nella parte del nord e non del sud. Sì. Esatto. È una cosa bellissima che hanno gli elefanti, molto poetica, è appunto il suono che emettono durante il rito funebre, cioè durante il distaccamento, okay, dal loro compagno. Barriscono e ricoprono il compagno defunto o anche il figlio con foglie e rami secchi che strappano dagli alberi vicini. È il famoso pianto dell'elefante. Sì. È una cosa, insomma. Il gallo, amico del nostro spot iniziale. Il gallo era l'animale preferito. Oddio, che fa kikiriki e quindi kikirikia. Kikirikia. Oh mamma, è difficilissimo. Kikirikia. Kikiria. Difficilissimo. Sì, dai, il gallo canta. Via, diciamo la variante canta. Professional non ci piace. L'asino che fa? Raglia. La mucca che fa? Mugisce. E quindi mugisce. Corrispettivo maschile? Mugione. Mugghiano. La mucca mugisce. Bellino. E il bue mugghia. Eh sì. E poi chi c'è? La rana si è detta. A questo punto basta. Quindi cantare, chicchiriare, ragliare, muggire, mugghiare. Un po' sì. È una fattoria questa. Esatto. Io te lo dico, questa è una fattoria. Una fattoria. E quindi guarda che vi si schiaffa. Beasts of England, beasts of Ireland, beasts of every land and clime, hearken to my joyful tidings. L'avrete tutti riconosciuto. Mr. Jones of the Manor Farm had locked the hen houses for the night, but was too drunk to remember to shut. To remember. È la canzoncina di Animal Farm, del libro che non si film. Sente. Sì, no, no, no, ora l'abbiamo levata. Era giusto per farvi ragionare un pochino sulla fattoria, ecco. Questo. Ma quindi siamo arrivate quasi alla fine. Prima di congedarci con un pezzo bellissimo che va ascoltato tutto per intero. Sì, sì, chiaro. No, veramente. Penso si ascolta tutto. Non voglio... Possibilmente ballandolo come pazzi. Potremmo mettere qualcosa di sottofondo. Sì, perché sta questa fatica a trovarlo, quindi non lo metteremo. Io rimetterei Animal Farm sotto. Il ballato va bene. Molto basso, molto blando, perché... abbiamo del libro del giorno, perché è tornata la rubrichetta Vi consiglio un libro, e a questo giro vi consigliamo L'invenzione della specie, per dire la norma di venire mostri, di Massimo Filippi. Abbiamo le edizioni Ombre Colte, Pagina 29, è un titolo meraviglioso. Vi volevo leggere, ma giusto 4 rigoline, che dicono proprio così. Il nostro linguaggio, infatti, è il principale dispositivo discorsivo e performativo dello specismo, capace perfino di dire mancelleria sociale o allevare i figli, facendo scomparire mattatoi e allevamenti. Ciò che è ritenuto costituire la principale linea di divisione tra la nostra specie e le altre è lo strumento principe per giustificare la categoria di specie. Per provare a giocare, dobbiamo allora esporre la favola e il calcolo del linguaggio, risignificarne il senso, l'anima, e ricostruirne il corpo, i significati. Eccepire la lingua, sprofondandovi, provare a lasciare la parola per muovere la lingua al fine di rimare e ripetere il canto. Per parodiare la parodia, se questa è paraudien, ciò che trova il suo ambiente nello spazio che si apre a fianco del canto. Punto. Che bello. Sì, è un libro bellissimo, e quindi mi sentivo in questa Massimo Filippi, Invenzione della specie. Slowly, di consigliarvi, sì. Detto ciò, non ci rimane che esatto. Allora, questa settimana, allora intanto guardiamo l'agenda, un pochino anche tutte le nostre faccende. Allora, se volete mettervi in contatto con noi e farci sentire come fate il verso del cane, del gallo, del gatto, eccetera eccetera, potete scriverci a posta wombat@insiberia.net, a scriverci un messaggino su Facebook, ci trovate radio-wombat-firenze a questo indirizzo, twitter.com radio wombat fi, quindi l'abbreviazione di Firenze, e soprattutto, ma tanto ve ne sarete già serviti del sito, perché o ci state ascoltando in diretta in podcast, siamo su wombat.noblogs.org. Bene. Tutti i nostri contattini sono stati detti, scriveteci. Tra l'altro ne approfitto per ringraziare chi ci ha contattato in queste settimane, soprattutto in questo caso noi dell'Accademia della Brusca, che siamo un po' lente nel rispondere, ma arriviamo. L'abbiamo detto anche la settimana scorsa. Sì, perché siamo un po' delle fannullone. Siamo un po' delle, come direbbero a Firenze, un po' fave. Sì, sì, però sì. Insomma, e probabilmente mi sento di annunciarlo, con la stagione nuova post estate ci sta che ci siano un po' di incursioni nella nostra trasmissione. Speriamo. E se qualcuno di voi volesse mai intervenire, ovviamente per quanto riguarda il mondo dei dialetti, delle varianti regionali, delle lingue straniere, potete sempre scriverci appunto al suddetto postawombat@insiberia.net e noi saremo ben liete di cogliere la vostra bandierina, la vostra... Così. Allora, io vedo che qui però... Non c'è niente? Facciamo l'agenda, abbiamo praticamente niente da dichiarare. Quindi? Perché gli spazi amici non ci hanno fatto sapere nulla, nei vari siti non trovo un granché... Quindi vi rimando a una vostra ricerca personale. Manuale. caso mi sia sfuggito qualcosa. Qualcosa c'è domani sera, mi sembra un concerto a Firenze, ma non mi ricordo dove. Bene, cercate concerto a Firenze domani. C'è la finale dei Calci dal Basso, che è questo torneo che viene fatto in via Dazzi. Non so gli orari perché non sono aggiornata, però comunque se andate in qualsiasi pagina, minchia, book, queste robe qua, cercate via Dazzi, torneo Calci dal Basso, c'è la finale nonché poi la festa. Dopodiché non so che altro dire perché non trovo informazioni. Ma soprattutto non sappiamo che altro dire perché il pezzo che stiamo per mettere non ha bisogno di presentazioni e no, nemmeno infatti, di troppi discorsi. Si fa concludere questa stupenda e importante puntata. Un grande passo. Di contenuti e di zanzare. Posso dire una cosa stupidissima? dal lato posteriore del rachide. Ma detto il ciò, rachide! Detto ciò, un piccolo passo per le brusche e un grande passo per la linguistica! Olè! Questa era veramente presuntuosa. Beh, qui dobbiamo concludere e spegnere i microfoni. Bene, godetevi questa cover di... Pensavamo...